finisce la lezione. Sei solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. Sei solo chiacchiere distintivo, chiacchiere distintivo. E 42 minuti primi. Le frequenze di Radio Onda Rossa, 87.9 della banda romana e laziale, mentre in radio sono in corso grandi manovre. Da parte di due ardimentosi, oserei dire, redattori della radio, che armati di buona volontà e di ramazza stanno cercando di far tornare alla radio i locali della radio a un fasto che non ne appartengono. Però almeno per una volta all'anno cerchiamo di rendere la radio il più possibile linda e pinta per ospitare tutti e tutte voi. Per il brindisi dei 42 anni della radio, il 24 maggio di ogni anno. Sono gli ultimi giorni del radioabbonamento www.ondarossa.info, il sito della radio. Lo aprite, aprite in alto la cartellina con la campagna 100 per 1000, ci sono le indicazioni affinché possiate far finire bene questa campagna di crowdfunding di radioabbonamento, in cui abbiamo chiesto a tutte e tutte coloro che ci sostengono giorno per giorno di aiutarci ancora una volta con un radioabbonamento che permette di ascoltare un anno di Radio Onda Rossa. Piccola, grande radio che fra due giorni fa 42 anni di autogestione. Venite qua sotto quindi a brindare, ci sarà anche Psycho Jules. E 100 celle posse. Hip Hoppers donne, di cui andiamo orgogliosi e orgogliose. Alle 6 del pomeriggio più o meno. Le giornate sono lunghe, venerdì ci sarà il sole, così almeno ci dicono. E a un certo punto durante la festa vi diremo fra poco cosa succederà. We'll be right back. non piace internet, 61 80 40 01, il numero del conto corrente postale. Da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00185, Roma San Lollo. 06 491750, il recapito telefonico della radio. Onda Rossa, @ondarossa.info. Mail per mandare le vostre comunicazioni alla radio, 25 o'clock 25, scritto al numero @ondarossa.info, per disturbare il sottoscritto. Primavera che fa bene al cuore, dura un momento e fugge de carriera. Ma se ci avessi un brivido d'amore, per me sarebbe sempre primavera, perché l'amore, se è bello come te, fa nascere anche d'inverno le rose di panzè. D'oro che non finisce più. Eccoci, dovremmo essere in onda, pronto? Eccoci qui. Qua. Da dove rispondete? Dall'area 51 del Forte Prenestino. Lo senti. Allora, stiamo parlando di due compagni che tra l'altro saranno ospiti la prossima settimana, il prossimo mercoledì, in vista di una cosa che non si vedeva da un po' di anni a Roma. Che è la Cemona Intergalattica Interplanetaria, quest'anno quale appellativo abbiamo? È sempre interplanetaria lo è diciamo per definizione, infatti certo. Si tratta della critica mass interplanetaria, detta Cemona. Quest'anno questo appellativo, questo dell'interplanetarietà, è anche più, come dire, anche più aderente, in quanto il tema fondamentalmente è quello dell'alieno, dell'UFO. Infatti dicevamo che siamo nel piazzale dell'area 51, la famosa area diciamo un po' del bestiario ufologico che tutti conoscono, quella dove si sospetta che gli statunitensi tengano nascosti alieni e dischi volanti, e noi abbiamo ribattezzato uno dei piazzali di Forte Prenestino Area 51 perché ci stiamo costruendo esattamente un disco volante che sarà un po' il simbolo di questa CM. Attenzione Cobolo a non svelare troppo le sorprese della CM, sì, di quest'anno. Esatto, perché poi ci deve essere intorno alla Cemona, almeno rispetto alle produzioni, quella sana suspense che serve anche per comunque continuare a convincere le persone a usare le due ruote. Abbiamo il convincimento deriva sicuramente da un discorso più ampio che in qualche modo riappropriarsi più degli spazi, il trascorrere, l'attraversare, il prendere la città con la bicicletta. Io ho svelato un po' questo mistero del disco volante, ma non l'ho detto come voleva, quindi la sorpresa è quella. Va bene, allora quindi adesso preparativi, perché non andiamo a svelare troppo. Vi ripeto, mercoledì prossimo, che sarà, se oggi è 29, giusto? 29, esatto. Beh, sì, mercoledì 29 sarete qua negli studi a 25 o'clock, insomma faremo serata e nottata nel raccontarvi quello che sarà. Mi auguro che mercoledì prossimo riuscirò a venire come qualche anno fa, con già qualche campeggiatore, certo, austriaco, che stanno venendo per questa Cemona dalla domenica o dal lunedì. Per darci una mano ad allestire sia il campeggio, che ospiterà un 150 persone che verranno a Roma da fuori città e da fuori Italia per pedalare alla Cemona, e sia per costruire altri mostri che verranno impiegati sempre durante la Cemona. Vedo un po' se li riesco a portare alla radio mercoledì, così ci raccontano anche un po' loro le esperienze delle loro ciclofficine autogestite, delle loro critical mass in giro per l'Europa. Benissimo. E invece il 24 di maggio, il 24, giorno il 24, della festa della radio, è anche però il giorno. Diciamo che il 24 c'è uno di quegli eventi che noi chiamiamo pre-cemonici, cioè che vengono prima della CM e sono un po' di preparazione. A Piazza Vittorio alle 17 c'è un incontro di ciclisti UFO, ovvero di ciclisti che in qualche modo, girando la città, attraversandola festosamente con delle grosse sorprese che abbiamo svelato, e quindi gireranno la città e alienizzeranno i terrestri, quindi li renderanno un po' alieni. Intanto chi partecipa è gradito che venga, non necessariamente ovviamente, però è gradito che venga con un connotato alieno, con un dettaglio alieno addosso, perché siamo alieni, vogliamo valorizzare il nostro essere altro dalla città, così come ci viene disegnata attorno, come ci viene proposta e imposta. Vogliamo valorizzarlo e vogliamo soprattutto sottolineare che siamo tutti alieni e nessuno è alieno più degli altri. Infatti diciamo, questa dell'alieno è un po' una metafora che noi usiamo per festeggiare, per ridere, scherzare, per attraversare gioiosamente la città, trattando comunque un tema scottante, importante e penoso, che è quello della migrazione, di come sta avvenendo vergognosamente gestita dagli stati fondamentalmente. Quindi la metafora dell'alieno è in questo senso molto pregnante. Ecco, quindi il venerdì prossimo ci sarà questa parata aliena che partirà quindi alle 17, cioè il punto d'incontro a Piazza Vittorio, e arriverà alla festa di Radio Onda Rossa, e quindi porteremo lì le nostre sorprese volanti. E noi non possiamo che gradire la sorpresa, che non sarà una sorpresa in quanto l'abbiamo annunciata. però c'è sempre, ci sono sempre i carburanti che rimangono una sorpresa. Certamente. Però il discorso si faceva interessante, quindi non vediamo l'ora di avervi ospiti qui per intersecare tutti questi piani del discorso che stavano uscendo fuori, perché poi andando in bicicletta, appunto, quello che abbiamo un po' sempre detto da qui, sia oltre che appunto andare in bicicletta serve banalmente per spostarsi, invece mette in moto delle endorfine strane, per cui si tende anche a pensare andando in bicicletta, e vengono tante belle idee. Sì, soprattutto a ridisegnare la città, a ridisegnarla in un, con un disegno, con tratti che magari sono un po' più vicini ai nostri piuttosto che a quelli che ci impongono. Benissimo, allora dai, appuntamento a venerdì qua sotto la radio e appuntamento a mercoledì prossimo qua negli studi. E in bocca al lupo. E intanto a voi buon lavoro, perché so che invece molto più state con... Bene. Con le mani impegnate, ecco. Grazie. Ciao, grazie ciao, a voi. Ciao, un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. A tocchi la campana suona, i turchi sono sbarcati alla marina, chi c'ha le scarpe rotte la isola. Io già l'ho arisolata stamattina. Come te posso amare? Amore, amore, mandami un saluto, che sto a San Michele carcerato, d'amici e da parenti abbandonato. Mi sento un povero albero caduto. Siamo qui a tocchi la campana suona. Siamo qui con la brigata Nettezza della radio. La Marina, che si è impegnata finora a presentare la radio come non è mai, praticamente, per tutto l'anno. Viva la gioventù trasteverina. mentre sotto la nostra voce va, va ardecore. Fiori de gioventù e Come te possa ma, due classici della tradizione romana riproposti. In versione jazz core. Con l'ausilio di Geoff Farina. In questo lavoro hardcore, proprio edito dal Manifesto di ormai parecchi anni fa. Hardcore che, come dicevo, saranno il 15, non mi ricordavo se l'avevo detto, ma l'ho detto in realtà, il 15 giugno, sabato, alla festa di Radio Onda Rossa, l'Onda Rossa Festa 2019. Psycho Jules, di nuovo sulla traccia. Spacco la testa contro l'apparenza. Sempre vera indipendente. Controtendente nel cuore e nella mente. Spacco la testa, sento sta pressa. Mille sta cassa che pompa fissa. In giro c'è gente che smonta le palle. Fra passa sta mista e non fa l'egoista. Se il cazzo del flotte collassa sull'onda. Il ritmo che pompa, che mi circonda. Sviaggio la mente, non sento niente. Solo sto gruppo che prende. Se cazzo ne sai di quello che vivo ogni giorno, dai. Non te conosco, non t'ho mai vista. Vuoi fa l'amica ma sei un egoista. Guarda che c'hai, combatti me. Ma è meglio che cambi pista, dai. Io vedo che se gente sto tutto uguali. Se all'apparenza meglio di me. Ma dentro solo il sorriso finto. Solo pugnali, frasi banali. L'anima è rotta, nessun rimorso, zero sconfitta. Ma vado avanti ancora più in fretta. Alzo la testa, col pugno in tasca. Mina vagante, giro per sta città. In festa, sono molesta, sono nevrotica. Fuori sto angelica, dentro diabolica. Traccio ste pagine, esco di casa. Microscopica, bomba atomica, fuori esco fuori. Anatomica, mentre rifletto su quello che sembra banale. Fuori, out, alzo di più il mio stato mentale. Fino a far male, se quello che non ti compete sfascia. Quello che non ti compete sfascia. Togli fiducia, se la chiusa. Togli fiducia, se la chiusa. Non chiedere scusa, chi ti ha deluso. A chi ti ha deluso. A caccia di nuove emozioni e sempre riduce la chimera alla tua mente. Quello che non ti compete sfascia. Quello che non ti compete sfascia. Togli fiducia se la chiusa. Togli fiducia se la chiusa. E non chiedere scusa a chi ti ha deluso. A chi ti ha deluso. A caccia di nuove emozioni sempre riduce la crime alla tua mente. Sono testarda fino alla fine. Quando trasformi i peccati in rime, i miei difetti diventano concetti. E non ho paura di contraddire. Combatto sempre fino alla fine. Fino a che non starò per morire. Solo sta musica mi tira su. Ho perso fiducia e poi non credo più. In questo mondo di falsi corrotti io cerco rifugio ai miei manoscritti. A te che mi guardi lassù che nel giorno penso sempre di più in eterno. Sei la mia forza, cresci il mio mondo perso. C'ho la tua arte che brilla dentro. Tu resta sempre con me per sempre, sempre fino alla fine. Sai che ti immagino in alto nel cielo dipingere gli angeli bianchi in rime. Tu riscaldato dal sole mentre sei avvolto dai raggi nel cuore. E so che nel fondo, nel più profondo, noi non apparteniamo a sto mondo. E anche se spesso scrivo con rabbia, poi solo l'arte che rompe sta gabbia. Vivo sapendo che verrà un giorno in cui tutto questo che vivo si è spento. Lascio pertanto solo un ricordo, solo una traccia di questo mio tempo. Solo combatto il mio mare dentro, solo combatto l'inferno del mondo. Quello che non ti compete sfascia. Quello che non ti compete sfascia. Di fiducia sarà chiusa. Fagli fiducia, te la chiusa. Chiedere scusa a chi ti ha deluso. A chi ti ha deluso. A caccia di nuove emozioni e sempre riduce la crime alla tua mente. Quello che non ti compete sfascia. Quello che non ti compete sfascia. Fagli fiducia, te la chiusa. Fagli fiducia, te la chiusa. Chiedere scusa a chi ti ha deluso. A chi ti ha deluso. A caccia di nuove emozioni e sempre riduce la crime alla tua mente. Se sei con giusto la traccia. Lezioni di vita racchiuse in un beat. Mi autoanalizzo pure su sto mic. Eh sì, tocca fa così regà. Invece che andare in chiesa a confessarsi, a sfondarsi di alcol e droghe, bisogna parlare, sfogare. Sfogare i propri demoni, creare per un futuro migliore una società che non ci prende in giro. Così io spacco la testa, alzo sta cassa. Sempre fuori pista, scrivo anticonformista. Se per viaggiare non mi servirà mica una mista. away out of the night, you from my Psycho Jules hand onto the darkness out of my mind inside my 100 celle posse my soul dopodomani soul. Anzi ormai sì inside my soul fra non molte ore. Eccole ancora Psycho Jules, Psycho Jules. Sulla traccia, Chernobyl, Chernobyl. Scorre lento se non senti passare il tempo. Mi riporto con la mente a quando era ancora innocente. La mia generazione è rovinata, no, non sente nulla perché è anestetizzata dal malessere sociale. Chernobyl, destrutturazione maniacale. Penso a Chernobyl, io vago con la mente e imbraccio il mio presente. Ma resto cosciente, che in mano non ho niente, solo coscienze spente. Chernobyl, generazione nucleare 86, nati sotto questa data epocale, sai. Ci volevano i coglioni dopo aver respirato radiazioni della centrale nucleare. La politica omertosa ci hanno spogliati, neutralizzati di una vera persona. Così del mio presente non immagazzino niente, del mio passato ne ho la nausea. Vivo solo di ciò che non posso più afferrare, figli del compromesso di questa Italia sacrificale. A rivista utilitarista dietro false promesse si nasconde il male di una generazione nel presente intera che non vuol vedere né sentire gli occhi consumati dei videogiochi dalla tele. Chernobyl, generazione base Chernobyl, Chernobyl, generazione base Chernobyl, Chernobyl, generazione base Chernobyl. Resta chiusa in casa e spera, spera. Tanto sai che fuori in furia la bufera, fuori in furia la bufera. Sei chiusa nella tana, dentro si sta bene, tanto il male scorre fuori al massimo dentro le vene. Assumi anfetamine psicoattive, dimentichi di alzarti presto le mattine. Esci di casa e c'è il benzo di assetine, torni che ormai è sera, quando il lavoro dice aspetta e spera. Amici, fantasmi in ogni dove, basta accendere il PC e vederli comparire sullo schermo altrove, tipo allucinazione, mentre intanto giri il tuo cannone. Do you smoke a spliff? Do you smoke a spliff? Chernobyl. Poi ascolti le ultime tendenze musicali, generazioni di rapper, artefatti e brutali, riprodotte con l'autotune, tu non li capisci, man, manco 700 toppi, until the end. Zero riflessione, zero spessore mentale, ma solo istinto di andare al cesso e vomitare. Così io faccio arte come quando voglio, tanto ciò non servirà a riempire il portafoglio. Ma sono rigorosamente antifascista, vaccinata contro questa società classista. Chernobyl, generazione base Chernobyl, con mentalità imprenditoriale e capitalista da far male. Siamo degli automi in un paese per vecchi, ci hanno rattoppato tipo autoricambi, con tanti vizi, macchine e biscotti. Noi barattiamo il vero per un mare di illusioni a fiotti. Chernobyl, generazione base Chernobyl, Chernobyl, generazione base Chernobyl. Resta chiusa in casa e spera, spera. Tanto sai che fuori in furia la bufera, tanto sai che fuori in furia la bufera. 100 celle post, Psycho Jules, forte prenestino. Chernobyl, fuori in furia la bufera. Mostrare fuori è preferibile a ciò che è dentro. Generazioni fredde fatte col cemento a blocchi, pensieri si fanno strade in topi. Tu senti rime, rime crude come spine, barre crude che dilaniano e te scavano, dirette dentro al petto, scherzo. Senti come suona questo suono metropolitano. Se sei con noi adesso alza la tua mano. Ma io rappo dal tramonto all'alba fino all'orizzonte. Nuoto su sto suono come sulle onde. La mia musica è pungente, il mio stile indipendente, il mio flow energizzante che ti fa volare. Ed è per questo che ripudio ogni guerra nucleare. Dicono meglio andare a lavorare che a rubare, anche se sono loro a derubarti uguale, levandoti diritti ed un futuro normale. Ma io faccio resistenza uguale. Chernobyl, generazione base Chernobyl, Chernobyl, generazione base Chernobyl. Resta chiusa in casa e spera, spera. Tanto sai che fuori in furia la bufera, bufera. Sai che fuori in furia la bufera. L'estate roba seria. E c'è, vabbè, c'è una persona che ride qua. Si dorme sui comuni nell'estate. C'avevo sì, c'avevo, c'è, vabbè. Vento parla. Sono quattro cose in azione, due microfoni aperti e dai. Quattro morti giù in Sardegna, nelle mani del potere. E giù nel mio paese arrivò l'epidemia. Settembre zero. Però bada, qui dobbiamo rimandare da capo perché Allora, innanzitutto, Psycho Jules, Chernobyl, da paura, qua stavamo tutti agitando il capoccione, insomma. Vai. Che bisogna aprire i microfoni, però, giustamente. C'hai i microfoni aperti. Certo. Le Psycho Jules, fantastiche. Da paura, dobbiamo... banana, cioè. Psycho Jules. La, giusto, giusto, Psycho diciamo, Jules diciamo. È una lei... fantastica che rappa da paura. Invece questa sera, sì, questa sera il 24 pomeriggio ci sono le 100 celle posse. Tutte quante. Cioè, Psycho Jules è 100 celle posse. So, sì. Ho altre due, tre in tutto. Tre in tutto, quindi spettacolone, io mi sono visto i video su YouTube, sul tubo, eccetera, sono da paura anche i video, quindi no, io invece è la prima traccia che sento e mi ha conquistato enormemente. Già, va bene, vedi, tutti entusiasti, quindi con lo stesso spirito venite qua il 24, anche perché appunto si sovrappongono poi le cose, avete sentito poc'anzi nella corrispondenza che abbiamo fatto un po' di tempo fa, aspetta, sì, meglio. La corrispondenza che abbiamo fatto un po' di tempo fa, in cui ci dicevano che una delle critical mass di impreparazione della Cimona poi di fine maggio, il 24 appunto si concluderà proprio sotto la radio qua alla festa di Onda Rossa, e Psycho Jules più 100 celle posse invece live e altre cose probabilmente live, e il mio sguardo sghembo va a guardare qualcosa. Bene, va bene. E dall'altra parte, 14 giugno invece, Pat da paura, l'abbiamo sentito anche lui proprio il 24 suonare questa cosa qui, qua sotto a Via dei Volsci, non ricordo però quale anno, forse i 39 anni se non vado errati di Radio Onda Rossa, quindi un po' di anni fa, 3-4 anni fa comunque. Questo è 1904, dal primo lavoro di Pat, che all'epoca si chiamava Patato, e dovremmo essere quasi pronti, perché non vorrei mandare delle cose sbagliate. Sì, diciamo che possiamo andare. L'estate roba seria, sui campi di galleria, si dorme sui covoni, nelle stalle dei padroni, il vento parla chiaro, è polvere da sparo. Quattro morti giù in Sardegna, nelle mani del potere, e giù nel mio paese arrivò l'epidemia. Settembre 04, vicino casa mia, voleva lavorare senza più vergogna, fu accolto con il piombo dagli sbirri dei torloni. E quando il sangue tocca terra, chi non è un guerriero faccia a faccia tra le barche, conta solo il cimitero. Un uomo ha visto tutto e non ricorda niente, quattro metri sottoterra, sotto i piedi della gente indifferente. Sui platani le reti ad asciugare al sole sembravano inferriate o sbarre di prigione. Un solo colpo in canna e un dito di condanna per chi non vuole stare al mondo come un animale. E giù nel mio paese arrivò l'epidemia. Settembre 04, vicino casa mia, voleva lavorare senza più vergogna, fu accolto con il ferro dagli sbirri dei torloni. E quando il sangue tocca terra, chi non è un guerriero faccia a faccia tra le barche, conta solo il cimitero. Un uomo ha visto tutto e il suo ricordo sfugge nella nebbia.

sposato da 20 anni. Grande e bella registrazione in un formato digitale però di ampio spettro. Fratello, apri gli occhi, non capire male, sì, la vita è questa. Ultimo lavoro di Pat e Coladino Goddam. Principe era l'animale a fare a pezzi il mo. Disco che si chiama Cinema, appena uscito. L'era brutale, riportata ad oggi è legge capitale. Mi spiego meglio, la giungla non ha senso dove c'è progresso. Hai tre telefonini e non conosci te stesso. E solchi il tuo quartiere tutte le sere, senza sapere. A capo, piccola storia del mondo. Pat, Radio Onda Rossa, 25 o'clock. Fratello, apri gli occhi, non capire male. Sì, la vita è questa, ma c'è una bellezza da rivalutare. Il principe era l'animale a fare a pezzi il mondo con una scia rudimentale. L'alba dell'era brutale, riportata ad oggi è legge capitale. Mi spiego meglio, la giungla non ha senso dove c'è progresso. Hai tre telefonini e non conosci te stesso. E solchi il tuo quartiere tutte le sere, senza sapere. Quattro, nove, due, l'inizio dell'Europa imperiale. Dici che me importa, ma le scarpe che porti sono macchiate di sangue umano. Perché qualcosa torna sempre indietro. Pensaci prima di chiamare qualcuno negro. Che se sta barca affonda, fesso bianco sarà il negro di qualcun altro. Io sono nato tra gli operai. Fratello, ho visto cose immaginate mai, ma non per questo brucio libri e fetici esorcizzando storie in pince qua. Come un cane arrabbiato nella peggio nottata, la tua anima cresce oltre questa strada. Un pischiello vero, tutto d'un pezzo intero, consapevole e fiero. E lo dico io, hanno inventato Dio per terrorizzarti. E le leggende sui più forti sono puttanate. Nella vita vengono smontati, pezzo su pezzo, pensaci adesso. Leggi la storia per capire te stesso. Sapere dove andare, da dove ricominciare. Il tempo in questa vita è una manciata, adattimi sai, sta a me sul pezzo. Ma ascolti, dai, ne riparliamo poi. Altri due campari via, li facciamo a goccia alla faccia mia. Con le ragazze a passeggio, la Roma in vantaggio, io ti parlo di filosofia. Ho incontrato Dio, vuole parlarti. Alla tua faccia, al tuo cognome, dalle tue paure. Il tuo conto è in banca pure. Pezzo su pezzo, pensaci adesso. Leggi la storia per capire te stesso. Non sapere dove andare. quindi piccola storia del mondo, Pat con Latino Goddam. Dal loro ultimo loro lavoro, cinema. Never Been in S Bay, The Devil's Hand, 14. Di giugno, quel di Strike SPA. The Devil's Sand. Strike, spazio pubblico autogestito, Radio Onda Rossa, 14. Di giugno prossimo, Onda Rossa Festa. Invece, pian pianino. Arrivano Plutonium Baby, Festo Zen. Garage Punk. Siete avvertiti, siete avvertite. Tutte quelle che amano il rock and roll, escano dai vicoletti bui della metropoli. Dalle bettole di terzo ordine. Plutonium Baby. Questa è Highway Hypnosis, che pure lei inizia piano piano. A proposito di UFO, e di astronavi cosmiche che attraversano universi paralleli, Highway Hypnosis, Plutonium Baby. quindi dopo Plutonium Baby, quella sporca cinquina, il 14 giugno parte invece l'attitudine rocchettara, rock and roll per Wendy, un lavoro che è stato pubblicato un po' di anni fa, presentato anche questo qua a 25 o'clock, ma che è un lavoro che ancora sta girando, nel senso che invece mano a mano che passa il tempo, che se ne matura l'ascolto, ci si rende conto di quanto cura ci sia in la confezione di questo disco. Idols and Gods, talking about sci-fi theories, not talking about conspiracy ideas. I'm just saying that reality is much more complex than they told us. The Dupt, Wendy a Radio Onda Rossa 25 o'clock, e lo ricordiamo il 14 di giugno in quella sporca cinquina. Punk rock contro il razzismo. My estate, she comes from 1963, just like me. Yeah, she's my 63 SG. Cause I feel as we always knew each other. When I'm with her words, she talks for me. If I feel blue, she comes close to me. I feel so lucky with my SG. First time I saw her behind a shop window, like a red light, this is prostitution. I'm so down. We Sweet tender notes or a feedback screen, according to the mood that I'm in. I trust my feeling to my SG. SG è la chitarra. Della voce che ascoltate, quella di Lorenzo. Lorenzo Canevacci. Cercheremo di sentire anche lui, magari. Prima di quella sporca cinquina. Ballads di quelle che ti rimangono. Di quelle che ti fanno volare. Sixty-three SG. Wendy. rock contro il razzismo. A Slicker. Blood 77 da Formia. Pay your 14 giugno, Onda Rossa Festa. Ci saranno anche loro. Io mi sveglio la mattina e faccio finta, colazione con la birra mezza finta. Mi lavo e scendo con i sogni ancora in testa, infrettolito provo a accendere la Vespa. Per la strada sento gente che protesta, perché con tutti sti stranieri che casino che c'è. Ci rubano il lavoro e tutti i posti, migliori voto a Fini perché lui li manderà tutti fuori. Spesso ci ripenso alle stronzate che sento, poi devo lavorare, non posso pensar più. Ma il mio nemico chi è? Ma il mio avversario qual è? Ma il mio nemico chi è? Ma il mio avversario. C'è un cantiere, sì, ci lavora a Tizio il carpentiere. Lui è nero e nero è pure il suo lavoro. Oggi ha chiesto un aumento al principale, gli ha risposto quale cose vanno male. Non mi importa di tua moglie e di tuo figlio come sta, queste sono le condizioni. Se non fai la porta e la cerchio non ti assumerò, io devo guadagnare. Lo guardo un po', ci penso, poi mi viene in mente che questo ieri il capo ufficio me l'ha detto pure a me. E penso, ma il mio nemico chi è? Ma il mio avversario qual è? Ma il mio nemico chi è? Ma il mio avversario. Capufficio come me sono italiani, poi di navigatori discendenti dei romani. Io sono come loro e Azizio, invece no, c'ho pure sangue e lui è solo un arabo. E se gioco con la fratellanza bianca, poi però mi sa che Azizio fa una vita come me. Lavora 8 ore al giorno proprio come me. Chi non capisce giudica lui come me. E quando il mio lavoro va in vacanza sento che, e la domanda che mi viene è: al mio nemico chi è? Ma il mio avversario qual è? Ma il mio nemico chi è? Ma il mio avversario qual è? Non voglio dedicare questo concerto a posti come Kukuk o al virus che sono stati chiusi. Erano posti dove cercava di fare l'autogestione, di portare avanti un discorso di cultura alternativa. Qualcosa di diverso dalla merda che tira tutti i giorni col commercio. Wenn Kukuk heute Abend spielt, denken Sie an den Kukuk, der vor kurzem geräumt worden ist. Denken Sie an den Virus in Milano, ein ähnliches Zentrum, das geräumt worden ist. Bedenken Sie, dass wir noch viele, viele solche Zentren brauchen, wo wir unsere Kultur, wo wir unser Leben feiern können. guarda caso quando vanno sotto i China. Live da Berlino. Il loro irreale realtà. Primo lavoro. Lontano 1985. Una news da Lanza ci arrivava riguardo la protesta dei detenuti di Campobasso, che si era animata un po' di tempo prima. Così recita Lanza, appunto, di qualche minuto fa, di poco meno di un'ora fa. La protesta dei detenuti di Campobasso è rientrata dopo il colloquio avuto con la direttrice del carcere. Non si conoscono ancora i contenuti dei colloqui, quindi avremo modo poi di dare un'informazione più completa nelle trasmissioni di domattina. E quindi siamo passati a un'altra data. Per il finanziamento della radio, invece, il 28 di giugno. Ovviamente siamo andati a ripescare dal lavoro più vecchio dei China. E quindi la qualità sonora è bellissima, a nostro avviso. Anche attraverso una banda, una gamma acustica così schiacciata, ecco, l'energia di quei 20 anni esce irrompente. ancora china, ancora irreale realtà. Correre, cercare, piangere, invece questa volta da in studio. Sempre 28 giugno. Abbiamo preparato Inofu, ma non lo sappiamo dove sono andati a finire. Non li abbiamo più trovati. Vabbè, Inofu prossimamente. 25 o'clock. Che suoneranno insieme a Ikina e ai Bomb Machine. E questa ve la rimando da capo perché veramente non si può transigere. Scelto la via. 10 minuti dopo la mezzanotte, 25 o'clock. Bomb Machine. La gloria è solo una bugia. Io sono tutto ciò che ho. E dormo con il diavolo al mio fianco. Senti. Hey, hey. Da capo. Questo è il CD che non si può mandare da capo, quindi adesso improvvisiamo e andiamo comunque da capo. Fianco. Eppure questa data, ibu. Con i pugni un'occasione presa lungo la via. Tra frantumi di sogni come un cane randagio. Io sono tutto ciò che ho. Ehi, ehi. E dormo con il diavolo al mio fianco. Ehi, ehi. E dormo con il diavolo al mio fianco. Ehi, ehi. E dormo con il diavolo al mio fianco. Ehi, ehi. E dormo con il diavolo al mio fianco. Dicevamo un'altra di quelle serate da non perdere. 28 giugno. I Kina che hanno presentato un documentario appena uscito. Se ho vinto, se ho perso. Un documentario sulla storia della punk hardcore band di Aosta. Sulle scene dal 1982. E insieme a loro suoneranno Nofu, Greve, Bomb Machine. Bomb Machine, Diabolici, qua sotto. Ci siamo quasi, noi ce ne stiamo per andare a Scherdù. Perché c'entrano? C'entrano con i Kina, c'entrano con i Nofu, c'entrano. Grant Hart recentemente scomparso, cioè da poco più di un anno, forse proprio intorno all'anno, proprio in questo periodo, un po' più in là, credo a luglio. Falling closer, falling closer, falling closer. 23 minuti dopo la mezzanotte, insomma, Asker Du. Ormai domani, 24 di maggio 2019, c'è scritto dalle 17, io farei anche 18, dai. Comunque, se venite alle 17, venite a dare una mano a sistemare tutto. Via dei Volci 56. Come ogni 24 maggio ci vediamo a Via dei Volsci, San Lorenzo, sotto gli studi di Radio Onda Rossa 87.9 per festeggiare i 42 anni di radio militante. Dalle 18 siete tutti e tutte invitate per fare un aperitivo in strada, a microfoni aperti. Dalle 20 concerti pop con la... Sì, no, c'è un errore qua nella presentazione. Allora, la diciamo però noi dalle 20 in concerto hip hop. Un Psycho Jules. le 100 celle fosse hip hop al femminile, abbiamo mandato prima e spacca, garantito. E intanto per le strade di Roma si aggirerà la Critical Mass, preparatoria della Cernona, che gira gira gira e va a finire proprio sotto via dei Volsci 56. Radio Onda Rossa, radio che si sente. Dai dai dai, ultime ore per il radio abbonamento per 30 per 1000, perciò datevi da fare. Ce ne andiamo così, vi lasciamo in compagnia della compagna automatica Sonata. La programmazione in diretta della radio riprenderà con il palinsesto del giovedì. E questa è una roba che suonava tanti tanti tanti tanti tanti anni fa dai Technics, dai piatti della vecchia regia di Radio Onda Rossa, quella dei 93.3, 93.4 e 50, come ricordavamo proprio qualche sera fa, anzi proprio ieri sera. Allora, dicevamo, la programmazione riprenderà dopo le programmazioni di Sonata e le repliche alle 8 con la lettura delle prime pagine, la segna stampa cittadina e redazionale della mattinata del giovedì, il giornale radio delle 13, lo spazio comunicazione, poi tutta scena cinema alle 14, alle 16 Attica Blues oltre alla Black Music, le schina del sole alle 17, alle 18 il Mezzedes del giovedì, Tabula Rasa e Apostasia alle 23 a chiudere i Cuginetti, che pure loro vi ricorderanno delle varie iniziative di finanziamento della radio. Noi ce l'avamo persi la sigla finale, la sigla iniziale non partiva, insomma un gran disastro. Il nostro saluto più importante va a tutte e a tutte coloro che ci ascoltano a condizioni limitate, libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari, i decreti amministrativi vari ed eventuali che vengono inflitti a chi accompagna e compagna, a chi fa le lotte, a chi è fuori dagli standard. Ci risentiamo mercoledì prossimo, puntata tutta dedicata alla Cernona. Daje! Sister, the best dreams to dream. Still comes to radical minds. I'll share our dreams under a communist.